giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica, ben ritrovati da Maria Spezia e Francesca Vigori. Commercio in primo piano. Ieri sera a Trieste si è celebrata la notte dei saldi, con l'intero centro città pedonalizzato per l'occasione, negozi aperti fino a tardi. I ribassi di stagione sono iniziati giovedì e i negozianti possono già tracciare una prima stima dell'andamento delle vendite scontate. In cima all'interesse dei clienti, tra cui moltissimi turisti, il settore dell'abbigliamento. Sono andati bene, come lo scorso anno, o forse anche meglio. I saldi estivi sono cominciati il 6 luglio e a Trieste hanno visto un calendario di iniziative che ha accompagnato le vendite fino a sabato sera, con la notte dei saldi e i negozi aperti fino a tardi. Il bilancio è positivo in tutta la regione, con picchi convincenti a Udine e a Lignano, ma anche a Trieste le vendite hanno dato risultati incoraggianti. Come spiega Elena Pellaschiara, vicepresidente di Confcommercio Trieste, un contributo importante è stato dato dai turisti, alto spendenti e interessati agli acquisti, che hanno girato numerosi per le strade del centro, soprattutto alla sera. Nella notte dei saldi la fascia migliore è proprio quella che va dalle 22 fino a mezzanotte, una tendenza già notata negli anni passati e confermata ancora di più in questa edizione. Se i saldi continuano come sono iniziati, ha dichiarato Roberta Maggini, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio, la prospettiva per la stagione è molto buona. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Galleria di Montebello a Trieste riaprirà martedì sera. Ad assicurarlo il sindaco Roberto Di Piazza. In programma anche il ripristino del servizio dei bus, rimasti deviati per oltre un anno, ma per quello ci vorrà qualche giorno in più. Gli operai che nell'afa domenicale lavano via dalla carreggiata le foglie secche e gli altri detriti sembrano suggerire che la riapertura della Galleria di Montebello a Trieste, chiusa da oltre un anno, sia davvero vicina. L'assicurazione è arrivata dal sindaco Di Piazza in persona, che garantisce che al 99% il tunnel sarà di nuovo transitabile da martedì sera, 11 luglio, alle 9:30. Un momento a lungo atteso, visto il ruolo cruciale della galleria nella viabilità triestina per collegare il centro con la prima periferia. 14 mesi di chiusura dal 16 maggio 2022 e molte le polemiche per i continui slittamenti di lavori che sarebbero dovuti durare 40 giorni in tutto. Ora però, dice Di Piazza, mancano solo alcuni quadri elettrici, ma ci siamo. È arrivato il momento di osare anche in vista del concerto dei Måneskin di domenica 16, che porterà migliaia di persone allo stadio Rocco, che si trova proprio a una delle uscite del tunnel. La galleria, aggiunge il sindaco, sarà riaperta come zona di cantiere, anche se il cantiere è ormai finito, con due persone della ditta che ha eseguito i lavori a controllare la situazione. Il via libera definitivo, spiegano dalla direzione lavori pubblici del comune, arriverà da una riunione tecnica prevista lunedì e entro martedì saranno eseguiti gli ultimi collaudi necessari. Da lì si aprirà anche il capitolo del ripristino del servizio dei bus. Appena riceveremo una notifica formale del comune, dice il presidente di Trieste Trasporti, Massimo Marzi Wildauer, partiremo con la riorganizzazione di turni, orari, fermate e tabelle informative. Un lavoro che cercheremo di sbrigare il prima possibile nel giro di una settimana, 10 giorni al massimo. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. È conto alla rovescia a Lignano per lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, in programma sullo specchio acqueo antistante l'Arenile di Sabbia d'Oro questo pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. L'evento è un appuntamento fisso per la località da più di 30 anni. Inoltre quest'anno l'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni dell'aeronautica militare, ricorrenza che già venerdì aveva portato la pattuglia acrobatica nazionale ad una straordinaria serie di sorvoli sul cielo di Trieste. Questo pomeriggio a Lignano le Frecce mostreranno le loro evoluzioni in formazione e del pilota solista. Dagli 8 chilometri di arenile il pubblico potrà ammirare anche l'elicottero HH-139 per una dimostrazione di soccorso e per la prima volta un aereo biplano Stearman configurato Wing Walker che si esibirà in acrobazie da capogiro. Ci sarà anche Andrea Pesenato, asso italiano dell'acrobazia aerea, con il suo CAP-231. Previste poi le esibizioni di due aerei Flying Donkey e i sorvoli di un Antonov 2, il biplano più grande del mondo. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su tutta la regione. Le temperature registrate poco fa a Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 25 gradi. A Pordenone e a Udine 29, a Gorizia 32 gradi, a Tolmezzo 30 gradi, a Forni di Sopra, a Sappada, a Tarvisio 25, a Piancavallo 23 gradi, sul Monte Lussari 19, sul Monte Zoncolan 20, a Lignano 28 gradi, a Grado 26, la temperatura del mare nelle due località è di 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi pomeriggio: su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza e caldo afoso in pianura e la sera sulla costa. Sui monti cielo variabile e qualche breve pioggia. Per domani caldo in genere su tutta la regione: su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza e caldo afoso pomeriggio in pianura e la sera sulla costa. Sui monti cielo sereno al mattino, mentre dal pomeriggio variabile con qualche rovescio. Entra nel vivo l'iter della manovra estiva di bilancio che a partire da domani torna alla prima commissione integrata incaricata di fornire l'ultima valutazione politica prima dell'approdo in aula il prossimo 25 luglio. La scorsa settimana la manovra, dapprima illustrata dall'assessore alle finanze Barbara Zilli in prima commissione integrata, era stata poi esaminata dalle altre commissioni consiliari permanenti che hanno dato tutte il via libera al testo presentato dalla Giunta. Oggi ricorre la giornata nazionale delle pro loco con 822 eventi in tutta Italia e una ventina in Friuli Venezia Giulia. Regione e mondo delle pro loco, ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, hanno scritto insieme pagine bellissime di volontariato e mantenimento delle tradizioni e della storia. Tra gli eventi in regione la rievocazione storica di Castelnuovo del Friuli, la tappa del Festival Mondiale del Folklore Giovanile a San Vito al Tagliamento, la sagra a Prada di Bordenone insieme a Castello, a Coloredo di Monte Albano, le visite guidate alla riserva naturale del Lago di Cornino a Forgaria, la festa d'estate a Montegnacco, note parole in rifugio e concerto Echi nelle valli del Natisone, scopri Resia in Varrese e la sagra del Gamberi a Saletto di Morsano al Tagliamento. Gli spettacoli si è confermato come grande mattatore il cantante Gianni Morandi nel suo concerto di ieri sera a Codroipo con i successi dagli anni 60 in poi. Stamattina per esempio ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Gianni, cogli l'attimo fuggente. Ha sfiorato il tutto esaurito il concerto di Gianni Morandi a Villa Manin, unica tappa in regione del tour estivo Go Gianni Go, previsto fino a inizio settembre in tutta Italia. Sul palco oltre 60 anni di carriera del cantante bolognese, più che popolare già dal 1962 con il grande successo Fatti mandare dalla mamma e che oggi conta appassionati di tre generazioni. Una carriera che vanta 7 partecipazioni come concorrente, con arrivo sempre tra i primi 10, al Festival di Sanremo, ma anche la conduzione di 3 edizioni della competizione canora più famosa d'Italia e che nel corso del tempo si è arricchita con diverse collaborazioni, da quella con gli Articolo 31 per il brano Come uno su mille, fino alle ultime con Jovanotti, sempre nella convinzione che ogni giornata è l'occasione per rimettersi in gioco senza badare al tempo che passa. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte. La cantautrice Alice si esiberà per il suo tour estivo Eri con me, Alice Cantabattiato, a Trieste, al Castello di San Giusto, alle 21. Propone un salto indietro nel tempo per conoscere il Medioevo, la rievocazione storica alle stagioni delle armi in programma a Trieste, in corso a Trieste, al Castello di San Giusto. I rievocatori della compagnia De Tergeste in costume d'epoca accompagnano i visitatori in un percorso didattico dove raccontano le vicende della città. Si intitola Il canto del pavone, il film incentrato sulla tratta dei minori che sarà proiettato questa sera nell'ambito del Festival a Prodi. L'appuntamento al Giardino Pubblico Tomasini di Trieste alle 21. L'attore triestino Lorenzo Acquaviva, uno dei protagonisti del cast del film, leggerà i suoi surreali diari della quarantena scritti durante le riprese del film in Sri Lanka. Nuovo appuntamento per la rassegna concerti nel parco con l'Officina della Camomilla in programma a Villa Manin. Il gruppo milanese, fondato nel 2008, si esibirà in successi delle stagioni passate. L'inizio del concerto alle 18:30. Il duo Damiano e Marcello Grandesso, rispettivamente sax e fisarmonica, eseguirà una selezione di grandi colonne sonore di film, da Ennio Morricone a Richard Galliano, al Castello Cecconi, a Pielungo, in Val d'Arzino, alle 17. Il cartellone della rassegna Estate Pordenone prosegue con il concerto Cetra una volta, omaggio a quartetto Cetra del Pordenone Vocal Ensemble con il Gabriel Fure e consorte al Parco di San Valentino alle 18. Il virtuoso della fisarmonica Gianni Fassette, Fabio Scaramucci, che reciterà letture tratte dalla distanza della luna di Calvino, si esibiranno a Caneva, al Casello della Guardia, alle 18. È tutto da Maria Spezia e Francesca Vigori, Paolo Cassano e Viola Romanese, che hanno curato la parte tecnica, Manuel Bussani in redazione ancora. Buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.